stare più a sentire. In questa notte solo lui mi può aiutare, solo lui mi può dire da che parte stare e da che parte andare. Da non riuscire neanche più a vedere il vuoto che c'è fuori, fuori e dentro di me, dentro di me. In questa notte solo lui mi può aiutare, solo lui mi può dire da che parte stare, da che parte stare. Se c'è Dio, io non lo so. A volte credo e a volte no. Ma se ci sei, io sono qui. Ti sto aspettando, ti sto cercando. Sì, da tutta una vita. Così stanco da non riuscire neanche più a pensare. Cosa sarà domani di me e di quello che farò? In questa notte solo lui mi può aiutare, solo lui mi può dire da che parte andare.